Blu Radio Sera. Le 21 in questo istante, ben ritrovati su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera che inizia in questo momento fino alle 22.30 con Sergio Bortolami che vi sta parlando in questo istante a fare un pochino da contorno alle chiacchiere musicali di Maurizio Calzavara che vedo al di là del vetro e anche questa sera incontreremo dei personaggi interessanti della musica italiana. Maurizio! Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, hai detto giustamente della nuova musica italiana, personaggi emergenti, una band e una cantante solista. Tutti e due hanno una correlazione, un legame, sono tutti e due liguri e questa è una cosa molto positiva probabilmente. Abbiamo con noi intanto i Belzer. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ecco, a tutti. Come va? Bene? Ma tutto bene direi, sono qua in vacanza. In vacanza. Abbiamo Giulio. Sì, sono Giulio, sono il cantante del gruppo. Io e Sergio ci siamo fatti questa domanda. Sei genovese o sei non genovese? Cioè ligure in ogni caso, ma genovese o no? Ma no, sono genovese di nascita. Ah, di nascita. E comunque ormai vivo a Genova da sempre, quindi sì, sono genovese, ligure, però le origini sono tra il piemontese e il quasi toscano anche. Ah, ho capito. Benissimo. Sì. Allora, il progetto, come nasce il progetto fatto da quattro persone con quattro intenti diversi musicalmente parlando e poi si è sviluppato in questo primo vostro disco di esordio? Dove è nato il discorso Giorgio? Come si è sviluppato? Come è venuto fuori? Dunque, è nato innanzitutto dalle canzoni che avevo scritto e avevo accumulato durante le mie varie esperienze musicali che ho fatto precedentemente. E quando ne avevo un bel mucchietto da parte ho detto, beh, a questo punto è tempo di dargli una forma e quindi ho iniziato a frequentare i vari studi di registrazione e pian piano con le varie conoscenze ho messo insieme la band e con loro abbiamo iniziato a fare un lavoro attivo di arrangiamento e produzione dei brani e dopo anni di sui palchi, concorsi, concerti, serate, tante esperienze siamo finalmente approdati a questo primo album che è il vero inizio della nostra carriera, discograficamente parlando. Se hai detto giustamente, dopo anni di concerti, di esibizioni, apertura di concerti di altri, anche Giorgio Canali, tra parentesi. Sì, due belle esperienze, Giorgio Canali e Iperturbazione, anche, è stata un'altra bellissima esperienza. E abbiamo fatto, sì, tantissime esperienze in giro perché diciamo che ci siamo un po' rodati in tutti questi anni e abbiamo aspettato la buona che arrivassimo a un buon livello secondo noi per iniziare a lavorare seriamente e soprattutto che avessimo anche una buona opportunità per iniziare a far sentire il nostro lavoro e questa opportunità ci è stata data l'anno scorso quando abbiamo conosciuto la nostra casa discografica attuale, la Pyramus International e abbiamo capito che era una buona opportunità questa e quindi siamo usciti finalmente. Ma come si può mettere assieme quattro diverse entità musicali, Giorgio? Ma guarda, Giulio. Giulio, no Giorgio, Giulio. Sempre con G, ma Giulio. guarda, è stato, penso che la cosa principale sia stato il trovare quel minimo comune denominatore in tutti che riguardava il voler creare una musica abbastanza semplice, diciamo, senza troppi ghirigori o troppe complessità, ma che proprio grazie a questa semplicità potesse arrivare facilmente a più orecchie possibile e a far muovere le corde, come scriviamo nella nostra presentazione, interiori. Sì, nella presentazione scrivete anche questo, con l'intento di comunicare emozioni e stati d'animo su un tessuto sonoro che io ho scritto che si avvicina molto al sound inglese, però con una sana predisposizione alla melodia italiana. Sì, sì, questo perché nasce principalmente appunto dagli ascolti che ho avuto, ma anche gli altri del gruppo abbiamo avuto tutti quanti in passato. In particolare io sono cresciuto ascoltando sempre musica inglese, senza aver avuto particolari predilezioni, ma mi è nata automaticamente questa passione per la musica inglese, pop rock. Quindi il Britpop degli anni 90, ma prima ancora i Queen, poi Radio e The Cure. E ognuno di questi gruppi mi ha lasciato qualcosa, come un piccolo seme di un qualcosa che volevo esprimere anch'io, che risuonava in me. E quindi ho iniziato pian piano a mettere insieme tutti questi vari semini e ho iniziato a scrivere grazie a queste ispirazioni. Sei te lo scrittore, però lo scrittore sì, hai dato l'input, però gli altri tre ragazzi hanno contribuito chiaramente. Sì, sì, soprattutto quest'album è veramente frutto del lavoro di quattro persone, cioè la canzone di base nasce sempre da me per le canzoni di questo album, però il lavoro di gruppo è fondamentale, non suonerebbe come suona oggi per niente l'album se non ci fossero stati gli altri miei compagni di avventura, Guido Bruzzone, Fabrizio Cosmi, Saverio Malaspina. Benissimo, cosa dici Giulio? Cominciamo a sentire l'album, a aprire la nostra classica finestra. Io ho scelto la traccia numero 2, mi pare, vero Sergio? Esattamente. Sì, sì, sì. Sì, sì. Senti. Ascoltiamo oppure la discutiamo dopo oppure la ascoltiamo? Giulio, cosa vuoi? Discutiamo dopo o la sentiamo adesso? Ma ascoltiamola, poi ne parliamo dopo. Ok, ne parliamo dopo, ok. Blu Radio Sera. Suono debole e poi aumenta il passo. Moltiplica il tocco lieve suo e poi discorre addosso. E sento la sua voce ridere, e sento il suo respiro crescere. Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo in compagnia dei Belzer, abbiamo appena ascoltato La Pioggia dal loro disco L'Ultimo Giorno d'Inverno. Maurizio. Sì, Giulio, ci sei? Sì, ci sono. La Pioggia. Facciamo un piccolo apertura. A proposito di pioggia, adesso la nazionale sta giocando sotto la pioggia a Londra. Un pezzo, una bella ballata pop, ma con delle belle chitarre, parlavamo io e Sergio a microfono spento. Sì, abbiamo lavorato su un suono, diciamo, abbastanza energico senza essere troppo pesante, in effetti. Inglese, un suono inglese, direi. Certo, sì, appunto. Questo è un buon esempio della nostra ispirazione principale, musicalmente. Dimmi. No, sì, il suono deriva appunto da gruppi d'oltremanica, insomma, penso che sia abbastanza riconoscibile i vari tributi che abbiamo pagato in questo brano, ad esempio. Ma coniugato chiaramente con una sonorità anche italiana, cosa dici, Giulio? Sì, certo, la melodia è proprio quella tipica, diciamo, nostrana, e anche il testo, insomma, muove su sentieri molto nostrani, direi. E questo brano nell'album è anche abbastanza importante perché è stato quello che ha un po', diciamo, ci ha chiarito il concetto che legava i brani che stavano nel pezzo, perché mi ricordo proprio mentre stavo registrando la parte vocale, colui che ha prodotto l'album, che è Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, proprio mentre mi spingeva a dare un po' più il senso di liberazione che questo brano dovrebbe trasmettere, mi ha fatto capire che in effetti era il tema comune di tutti i brani contenuti nell'album, e quindi da qui è nato poi L'Ultimo Giorno d'Inverno come titolo. Infatti il tema comune per i 10 brani, i temi comuni per il vostro ultimo disco sono la liberazione e il sollievo. Sì. In che senso, da cosa e da dove nasce questa cosa poi? Sono esperienze tue o del gruppo? E ognuno ha portato qualcosa per la composizione dei vari brani, oppure è una cosa solo tua? Ma diciamo che principalmente, avendo scritto io i testi, nascono molto da esperienze personali mie, diciamo. Solitamente nei testi lascio molto delle immagini, in modo che sia tutto abbastanza interpretabile dall'ascoltatore. Ed è in questo che vorrei che funzionasse. L'intento è quello di far funzionare appunto il trasmettere l'emozione, quindi fare in modo che non ci sia un contorno troppo definito dell'argomento, in modo che ognuno possa trovare il proprio significato con la sua fantasia, con il suo sentire. Sì, esattamente. La pioggia, ad esempio, parla dell'ispirazione, però ognuno potrebbe trovarci altri significati, e questo penso che possa essere positivo comunicativamente parlando. Dal punto di vista musicale, che dritta ti ha dato il produttore su questo pezzo che dicevi ti dava l'input per avanzare, per allargare anche vocalmente? Sì, esatto. Soprattutto quando stavo passando nella parte del ritornello, mi diceva proprio di comunicare molto di più il senso di liberazione che il brano vuole trasmettere. E quindi sì, allargare il termine è giusto, lavorando proprio sulla voce, dare più intensità in modo da aprire di più, ecco, come avviene poi anche dal punto di vista strumentale con l'arpeggio di Fabrizio sotto e la dinamica che cresce, insomma. Quindi assecondare molto con la voce questa apertura melodica. Date più vigore musicalmente dal vivo in questo pezzo oppure rimane simile all'album? No, generalmente dal vivo, oppure seguendo la stessa, diciamo, partitura della parte originale, del brano originale, dal punto di vista dell'intensità diamo sempre qualcosa in più ai nostri pezzi. Infatti è una cosa che ci viene anche spesso riportata. In realtà in questo album abbiamo cercato di trasferire molto di quello che facevamo dal vivo in studio, già nell'album, perché spesso ci facevano notare che in studio i nostri primi demo non erano forti come quando li facevamo dal vivo. Okay. E quindi ci siamo un po' impegnati per trasferire in studio, e penso che ora un buon passo avanti sia stato fatto. Però dal vivo comunque c'è sempre molta più energia, anche per l'adrenalina e tutto. Certamente. Quindi è stata molto importante questi anni passati a calcare i palcoscenici, praticamente. Certo, perché dritte di questo genere ci hanno fatto capire verso quali direzioni dovevamo muoverci, senz'altro. E oltretutto poi ci siamo mossi anche in formazioni un po' diverse, a parte quella elettrica, che è quella che principalmente viene rappresentata nell'album. Ci siamo mossi molto spesso anche in acustico, magari due chitarre acustiche, percussioni e basso, formazioni un po' ridotte, proprio perché spesso a Genova i locali sono molto piccoli, nei vicoli eccetera eccetera, e quindi ci dobbiamo un po' adattare a spazi diversi. E questo però ci ha portato a vedere le canzoni anche sotto un'altra luce, sotto un punto di vista diverso. Alcune di queste canzoni di questa formazione, come ad esempio Un'estate o come L'ultimo giorno d'inverno, poi sono entrate anche nell'album in maniera intatta praticamente. Ho capito. A proposito di acustico, io ho scelto, mi pare, se Sergio mi dà l'ok, L'equilibrista, traccia numero 4. Sì, sì, la 4. Sì. La 4. Quella è una bella, non posso dire una ballad, è un momento acustico dell'album. Cosa dici, Giulio? Sì, direi di sì. Nasce basata sul pianoforte come canzone, quindi è uno strumento acustico per eccellenza, anche se poi sotto si crea un tappeto di chitarre elettriche che sì, dà un po' di intensità. Esattamente. Lo sentiamo adesso allora, ok? Va bene, volentieri. Allora andiamo a sentire la traccia 4, L'equilibrista. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Luce, dammi l'equilibrio che non vedo la realtà. Resta ferma un attimo e il mio piede si poserà e mi ritrovo qui da un po' in preda a forze opposte che mi tirano e senza rete. Ed ho bisogno d'essere costante più del vento che mi scuote. Adesso che salgo, scendo, parto, resto, siedo, fermo e corro. Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Radio Sera. Blu Radio Sera. E all'interno di Blu Radio Sera in questo martedì 10 ottobre, sì, buonanotte 10 ottobre, 10 agosto, vabbè. Siamo in compagnia di Giulio Belzer, guarda caso dei Belzer, Maurizio. Sì, ok Giulio, abbiamo sentito questo pezzo con l'equilibrista, con Sergio, questa bella chitarra, cioè un momento acustico, ma queste chitarre che entrano, che danno un po' di vigore e poi ritorna al momento acustico. Sì, era un modo per dare un po' di intensità, come dicevo prima, a questi passaggi quando sale la dinamica del brano. In realtà per un po' avevamo anche meditato di usare degli archi per dare, che forse è una soluzione un po' più tradizionale per dare intensità. Ma quando poi Fabrizio ha lavorato sulle sue parti di chitarra, abbiamo capito che bastavano quelle per dare questo tipo di intensità che noi cercavamo, e quindi ci siamo fermati. E complimenti. Grazie. No, un bel pezzo indubbiamente. Sì, sì, sì. Qualche critico ha scritto un po' alla Marillion all'inizio, può darsi che sia d'accordo anche il sottoscritto, non so se sei d'accordo te. Guarda, me l'ha fatto notare in effetti questo tipo di atmosfera simile nell'intro soprattutto. Sì, solamente nell'intro, qualche secondo, e poi si sviluppa totalmente dei belz, assolutamente. Però nell'intro qualcosina, ma proprio da lontano, qualche piccolo collegamento, ma molto molto labile, c'erano i Marillion, ma non c'è niente di male, assolutamente. No, in effetti io tra l'altro non la conoscevo la canzone, in particolare quella che si avvicina di più a questa. Però bene, comunque, come dire, c'è stato qualche collegamento, diciamo, alla lontana anche con loro. Sì, ma certo, è giusto. Cioè, questo sviluppo dal sound inglese, sì, dal sound inglese, però a denominazione di origine controllata genovese, cioè ligure, quindi vostro, chiaramente, al 100%. Certo. Siamo genovesi dentro noi altri. Ecco, perfetto. E un'altra curiosità mia, ecco, sempre dal vivo, un pezzo simile, così, tra l'acustico e l'elettrico, è difficile estrapolarlo, allargarlo? Era un po' un nostro timore che non bastassero, che ci volesse qualche altro intervento esterno per rendere l'intensità. E invece, come dire, il nostro chitarrista prode Fabrizio Cosmi è riuscito a far lui l'equilibrista delle sei corde e a creare una buona sintesi tra tutte le parti che ha sovrainciso sulla chitarra, rendendo praticamente lo stesso pathos senza perdere in nulla. E quindi io ho fatto un bel sospiro di sollievo quando l'ho sentita la prima volta fatta insieme, e sentendo che rendeva, insomma, direi abbastanza bene come l'originale. Ma è stata buona la prima o quasi? Ma devo dire che questa volta, a differenza di altri brani un po' più complicati dell'album da rendere bene, l'equilibrista non ci ha dato un grosso problema, era praticamente buona la prima. Al pezzi come Un Rimedio invece hanno... È un po' più difficile, cioè più difficile, più complesso, cioè non è stata buona la prima, nel senso c'è stato un po' più di costruzione di tempo da perdere, in senso positivo, chiaramente. Sì, sì, sì, esatto, perché è un pezzo che ritmicamente è insidioso e dobbiamo ritrovare la giusta porzione per non diventare né troppo rapido né troppo complicato, altrimenti si sgretola facilmente, è Un Rimedio. Mentre invece l'equilibrista, come dire, ha trovato il suo equilibrio, giusto per giocare ancora sul titolo. Giulio, io non avevo ancora letto la recensione che ha scritto Maurizio nel sito della radio e mi sono accorto adesso che è il vostro album di esordio questo. Intanto complimenti perché appunto avete raggiunto un timbro, un suono veramente molto professionale, diciamo. E quindi volevo sapere un po' i vostri trascorsi in altri gruppi o sì, ciascuno della band più o meno che cosa ascolta anche. Magari. Certo. E, dunque, beh, partiamo da, ad esempio, Guido Bruzzone, il bassista, ha avuto trascorsi in altri gruppi, sia di cover che di brani originali, negli anni 90, diciamo è un po' più l'anziano del gruppo, quindi lui ha avuto un sacco di esperienze passate. Sì. E, gruppi come i Quadra, insomma, che hanno fatto diverse cose in ambito genovese, ma anche in vari concorsi all'estero, fuori Genova, diciamo. E, Fabrizio Cosmi è un chitarrista, anche lui di una certa esperienza, ha collaborato anche con Caballà, tra l'altro, cantautore siciliano, molto, molto importante nella scena siciliana. E, tra l'altro è uscito col suo album solista Itinerante qualche anno fa, quindi ha anche una sua carriera solista avviata, e quindi anche lui ha avuto molte esperienze. E per finire, Saverio Malaspina ha suonato in due gruppi genovesi molto importanti a livello nazionale, come i Blindos Barra e i Meganoidi. Eh beh, Meganoidi. Ah, però. Eh beh. Non male. Non male. Non male. Infatti è stato il nostro link col Green Fox Studio dei Meganoidi, dove abbiamo registrato l'album e coprodotto l'album con Mattia Cominotto, chitarrista dei Meganoidi, che salutiamo e ringraziamo per il lavoro per l'ennesima volta. Non è mai abbastanza. Inoltre volevo segnalare anche Marco Marongio, che è il percussionista che ci segue nella, e ci aiuta nella fase acustica quando ci muoviamo in quest'altra formazione acustica, e nonché Matteo Minola, che è il batterista che in questo momento ci sta dando una mano nel live da un anno a questa parte, essendo Saverio in un attimo di pausa, e quindi insomma abbiamo anche queste, è una famiglia allargata la nostra, diciamo. Quindi avete sia una dimensione acustica sia una dimensione elettrica, perché spesso e volentieri è più facile trovare delle date acustiche che non delle date più allargate, così Giulio? Sì, è proprio così, è esattamente così, soprattutto in città come Genova che, come dicevo prima, sì, hanno locali di dimensioni molto raccolte, quindi una batteria spesso o per il rumore, con i vari problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni di chiusure di locali, e qui apro una parentesi polemica legata al rumore, a problemi, molto spesso i gestori si sono dovuti arrangiare in altra maniera, e quindi l'acustico è stato un buon ripiego, e però noi ci siamo dovuti adattare a questa nuova richiesta. Però questo ci ha portato, come dicevo prima, a nuove soluzioni che sono state anche, mi sembra, molto apprezzate da quelli che erano presenti, senza falsa modestia. E, tra l'altro, in una di queste date acustiche l'abbiamo divisa anche con la ragazza che intervisterete dopo, Chiara Ragnini, che abbiamo, certo, abbiamo suonato insieme un anno fa in una bellissima rassegna di Arenzano, e quindi ci sono state delle belle esperienze in questa veste. Ottimo, decisamente. Adesso abbiamo scelto un altro pezzo, Sergio, qual è? Ti ricordi? Indaco. Sì, quel pezzo in inglese che è un bel tiro, secondo me. Lo sentiamo e poi ne parliamo, Giulio, cosa dici? Benissimo, volentieri. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Oh, and you know, questo punto, Maurizio, a me verrebbe da chiedere al nostro Giulio quando è che, insomma, lo vedremo, che ne so, a Wembley, esatto. Con un pezzo così. Giulio. Ma spero domani sera, però bisogna un po' organizzarsi nel frattempo. No, veramente. Ma... complimenti, proprio un bellissimo suono corposo, bello, bello, bello. Grazie, mi fa molto piacere, vi ringrazio. Qua diciamo che dal punto di vista del testo l'inglese ha vinto sulla parte italiana. In che senso? Perché magari... No, dimmi. No, diciamo che... suonava meglio. Sì, esatto, ah, esatto. Okay. Proprio per la scansione metrica delle parole, alla fine ho trovato che l'inglese fosse la soluzione, sì, migliore. Sì, sì, sì, sì. E quindi abbiamo, diciamo, fatto un lavoro completamente da quel versante, era questo che intendevo. Ci fermiamo 30 sì. secondi, 34 secondi e torniamo subito. Spot. Il 15 e 16 al Castello di Valbona, decima edizione di Ritornando al Medioevo, con rappresentazioni della vita di corte e degli antichi mestieri tra dame, cavalieri, spadaccini e arcieri. Il giorno 16, processione a lume di torce del santo sul carro trainato dei buoi. Gran finale con fuoco alle 6 torri del castello. Castello di Valbona di Lozza Testino. Per informazioni telefono 0429 970 22. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, dicevamo. Sì, Giulio, ci sei? Sì, ci sono. Giulio dei Belzer dalla Liguria. Ero incerto se scegliere questo pezzo o scegliere Equilibrista per passarlo per un mese come abbiamo fatto qui in radio. E ho scelto questo pezzo perché è un grande tiro, secondo me, in tutti i sensi, musicalmente parlando. Beh, sì, questo in effetti è uno dei brani un po' più rock dell'album. La cosa che gli dà forse una marcia in più rispetto ad altri brani è la diversità dei passaggi attraverso cui si sviluppa la melodia e l'aspetto armonico del brano. E sì, poi dal punto di vista proprio del suono, le chitarre sono assolutamente in primo piano ed era proprio quello che volevamo rendere. Quando abbiamo lavorato alla pre-produzione dell'album, abbiamo un po' visto la prima versione di questa canzone, la sentiamo ancora un po' debole dal punto di vista del suono delle chitarre, quindi a questo punto abbiamo alzato il gain e l'abbiamo messa in primo piano, e penso che alla fine il risultato sia molto più energico, e questo ci piace, ci era piaciuto molto come risultato. E anche il tuo cantato è piuttosto energico, si adatta al pezzo chiaramente. Sì, sì, sì, anche qua ho cercato di dare di più dal punto di vista dell'interpretazione, diciamo. E vedi caso è la traccia numero 5 al centro del discorso. È significativo per te, Giulio, o solamente un caso? No, diciamo che è stata casuale. L'ordine dei brani, a parte il brano di apertura e quello di chiusura, l'ordine è stato a seconda, diciamo, del suono generale dell'album, in modo che non ci fossero cali di attenzione, quindi è stata una cosa assolutamente casuale, però bella, perché a me piacciono questi discorsi di equilibrio anche visivo dal punto di vista della scaletta, ad esempio. Certo, è una cosa, hai detto che è stato coprodotto, ma che importanza ha avuto il produttore, che non voi chiaramente, l'altro collega vi ha dato una mano, il leader di Megadonoidi? Sì, beh, tantissimo dal punto di vista del suono generale dell'album, ha fatto un lavoro proprio di produzione sonora importantissimo. Le nostre precedenti esperienze di autoproduzione sono state sempre un po' carenti dal punto di vista, alla fine, del risultato che volevamo dare. Invece lui, essendo molto abituato a lavorare con suoni aggressivi di chitarra, ha fatto un lavoro ottimo, diciamo, dal punto di vista del suono, tantissimo. Diciamo che il nostro contributo è stato soprattutto dal punto di vista del materiale portato, cioè noi avevamo già tutte le partiture pronte solo da registrare. lui ha dato tantissimo proprio dal punto di vista dell'ambiente sonoro, e ha saputo, è stato molto bello perché in realtà non aveva mai collaborato prima e ci conoscevamo da poco, diciamo. Però ha capito subito quello che volevamo fare e ha saputo alzare quelle parti dal punto di vista dell'aggressività dove ce n'era bisogno e rendere più morbido dove c'era bisogno. Quindi l'effetto generale a noi ci ha dato subito una grossa soddisfazione, sì, soprattutto il lavoro sulle chitarre. Ha fatto un ottimo lavoro, lui che con la band è un po' vigoroso, tra virgolette, insomma. Qua sì. Ha fatto un lavoro giusto, ha fatto un lavoro di equilibrio perfetto, secondo me. Sì, esatto. Noi speravamo che sapesse dare appunto quel tocco in più d'aggressività alle chitarre elettriche, soprattutto quelle distorte, insomma, i suoni di chitarra. Mm. E questo, su questo non ci ha delusi. La cosa che ci è piaciuta molto è che ha saputo anche dare il morbido, il suono pulito e morbido dove c'era bisogno. Certo, quindi certo. Ha creato un equilibrio ottimo, secondo noi. Andiamo un altro pezzo. Sergio, che pezzo abbiamo scelto? Scusa, dimmi. La traccia 9, un'estate. È un'estate, anche questa è una bella ballad, un po' particolare, secondo me. Cosa dici, Giulio? Ma ne parliamo dopo, sentiamo adesso, ok? Va bene. Blu Radio Sera. Hai luci intense fisse su di noi, oltre il confine esterno degli occhi tuoi. Hai strati di parole addosso che faccio fatica a creder che appartengano a te. Credi che non ti veda mentre cerchi di accerchiarmi, neanche se c'è stato un attimo sarebbe stato possibile, e se persa in quell'attimo tuo tutto ti è sembrato ancor più facile, e se anche c'è stata un'estate in cui tutto sarebbe stato possibile, non rimpiangerla. Non rimpiangerla mai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato Un'estate dei Belzer dal loro disco L'ultimo giorno d'inverno, disco d'esordio tra l'altro, come dicevo prima, non lo credevo ascoltando il bel suono che ci propongono. Maurizio. Giulio, ci sei? Certo. Volutamente ho scelto questo pezzo perché secondo me è un po' diverso, un po' al di fuori delle altre tracce, e Mattia ha fatto un bel lavoro anche su questo. Sì, certo, qua ha avuto molta cura nel rispettare l'ambiente acustico generale del brano, arricchendolo con qualche tocco sonoro qua e là di tipo un wind chimes, quindi ha dato molto spessore e profondità anche al suono delle congas, ad esempio. Sì. Quindi ha creato un ambiente giusto per il tipo di canzone che volevamo rendere, insomma. Decisamente. Un percorso, cioè, ripeto, secondo me questo era un pezzo che si distacca leggermente dagli altri, ma volutamente si distacca, perché l'idea era quella. Sì, certo. Diciamo che questo proprio è uno degli esempi più forti del nostro lato più acustico. Infatti è uno dei nostri cavalli di battaglia quando ci esibiamo in questa veste. Ed è un brano, sì, che si stacca abbastanza anche perché ha ispirazioni leggermente più latine, inizia un po' come una specie di bossa nova o begin, diciamo, e poi si apre in una maniera un po' più da ballata tradizionale, diciamo. In effetti era stato un mio esperimento nel tentativo di creare qualcosa di un po' diverso dal solito stile in cui stavo scrivendo, in cui avevo scritto fino a quel momento. È un brano che avevo iniziato a comporre diversi anni fa, ormai è un brano che avrà quasi 10 anni, la sua primissima stesura, però poi è passato attraverso tantissimi rimaneggiamenti e alla fine questo arrangiamento un po' più latino era quello che mi interessava di più, che mi dava molto più, credo che virasse meglio dal punto di vista proprio ritmico, e quindi ci è sembrato giusto lasciarlo anche in una forma molto semplice, molto acustica, poche cose, tocchi di chitarra, ma senza troppi sovraincisioni. Giulio, il tempo stringe e dobbiamo quasi salutarci. Ti chiedo i modi per metterci in contatto con voi. Avete un sito, Facebook, queste cose qui? Certo, dunque su Facebook basta cercare Belzer e tra le prime pagine apparirà quella del gruppo musicale, oppure Giulio Belzer è la mia pagina personale. E poi da lì si arriva, sì. Oppure su MySpace, www.myspace.com/belzerband, e anche sì. Lì Belzer Band tutto attaccato, e anche lì potete contattarci. Abbiamo un sito che è un po' arretrato e presto verrà rimesso da capo, ma qua potete trovare i nostri contatti mail, come info@belzer.org, sì. Oppure ci sono tutti gli indirizzi con i nomi dei vari componenti, quindi Giulio Belzer @belzer.org, Fabrizio Cosmi, eccetera, eccetera. Quindi se volete scrivere qualcosa al bassista piuttosto che al chitarrista, potete farlo sul nostro sito che è www.belzer.org. E per quanto riguarda i concerti, dubito di potervi vedere dalle nostre parti, però magari. Guarda, spero di farlo presto in realtà. Diciamo che al momento le nostre prossime date saranno sicuramente nel genovese le più immediate, sicuramente sì. Intorno a ottobre ci sarà qualche data acustica, probabilmente faremo qualcosa anche intorno a settembre, ma quando le cose saranno più definite metteremo segnale sul nostro MySpace, sulla nostra pagina di Facebook, quindi chi fosse interessato può trovare lì le indicazioni. Buono, ok, qua. Bene. Giulio, puoi scegliere un pezzo per concludere questa bella chiacchierata di stasera? Io sì, oltre a ringraziarvi molto dello spazio che ci avete concesso, della qualità dello spazio anche che ci avete concesso, mi piacerebbe che facesse sentire Un rimedio come brano. Benissimo, che la traccia, ti ricordi? La 3, è il terzo traccia brano, sì. Perfetto. Ti salutiamo Giulio. Ciao Giulio, grazie. Ti ringrazio. Erano i Belzer con noi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Oh. ascoltami, non fare in modo che le mie parole si sciolgano girando a vuoto come neve al sole. Ricordati, sei tu la luce in fondo al tunnel che ti radia. Ascoltami, c'è sempre un modo.